Ma io credo che intanto bisogna dare dei segnali chiari, legati innanzitutto insomma alla liberazione dei compagni e delle compagne arrestate, quindi appena si saranno notizie più precise su come procederanno le cose, credo che bisognerà, senza parlarne troppo insomma, e dare un'indicazione di mobilitazione in questo senso. E dall'altra credo che abbiamo un'esigenza insomma di difesa delle occupazioni, almeno diciamo di quelle che sono, che hanno resistito diciamo all'attacco che abbiamo subito lunedì scorso, insomma, con l'iniziativa di riappropriazione che sono state messe in campo, gli sgomberi. Questa è la condizione necessaria per ripartire e rilanciare in avanti queste importanti lotte. E allo stesso tempo bisogna anche un pochino riflettere su come prosegue il movimento. Io credo che ci sia sicuramente davanti a noi come orizzonte chiaro, insomma, e anche immediato, il conflitto sul decreto Lupi, e quindi credo che bisogna provare, diciamo così, visto che soprattutto il circo mediatico insomma ufficiale, no, quando ci sono delle occasioni di conflitto in piazza, ci sono travisamenti, no, tendono a spersonalizzare i soggetti sociali che li compiono. Noi dobbiamo impedire questa operazione ridando pubblicamente un volto sociale a chi oggi sta entrando in conflitto col governo Renzi e le sue politiche. Quindi dobbiamo ritornare immediatamente all'attacco, fra virgolette, anche se non ci siamo mai fermati, rilanciare la lotta per la casa, la lotta contro il decreto Lupi, complessivamente, chiaramente impattando anche con questa vergogna dell'articolo 5. Già in settimana ci sono alcune iniziative, in modo particolare un corteo in un quartiere popolare che è il quartiere della Magliana giovedì prossimo, quindi credo che è una cosa che siamo pronti a fare, ma va costruita bene, collettivamente, con coraggio e con intelligenza. Dall'altra c'è una riflessione su come deve proseguire il movimento complessivamente, no? E credo che diciamo in qualche modo la manifestazione di sabato ha dato il segnale che questo movimento è radicato in alcuni territori, in alcune lotte, quindi tiene nonostante le illusioni, i tentativi di divisione che fanno anche presa insomma da parte del governo Renzi in questo momento, gli interessi elettoralistici che cominciano ad impazzare e per i quali questo movimento è qualcosa di estremamente scomodo. E quindi credo che ci sia necessità di capire come prosegue un processo di intreccio delle lotte, conflitti per la casa, il reddito, contro la precarietà, ma anche i conflitti territoriali, quelli contro le grandi opere, per i beni comuni. E quindi c'è diciamo, di fronte a noi un'agenda in qualche modo che è fatta di iniziative sui beni comuni a maggio, di una battaglia che proseguirà sulla questione del reddito attraverso i primi maggi, guardando al vertice sicuramente dell'11 luglio a Torino. Però al di là delle scadenze c'è bisogno di ragionare e di capire come noi riusciamo ad allargare questo spazio di movimento, che è di fatto l'unica possibilità di mettere in discussione realmente lo stato di cose presenti, e quindi deve essere, diciamo, attrattiva e coinvolgente. Questo credo che sia un elemento importante da portare con noi nella riflessione di queste settimane, su cui spendersi e capire quali sono le prospettive, insomma. Ascolta, ci sono stati insomma vari commenti dopo il corteo, ovviamente, e c'è chi insomma accusa un po' i movimenti di aver concentrato la manifestazione sui problemi della casa, e ti chiedo quindi anche di rispondere a questo, perché insomma sembra un po' un'accusa un po' strumentale. Abbiamo anche Irene in linea, ci senti? Ma io penso che molte delle accuse che vengono mosse, lo dico direttamente, hanno un sapore abbastanza strumentale, nel senso che questi movimenti, non parlo soltanto della manifestazione del 12 o del 19, ma di tante vicende che sono accadute in questi anni, hanno messo in discussione le strutture preesistenti, i movimenti, le lotte già in piedi, dal punto di vista proprio di come funzionano e di quello che rappresentano. C'è una resistenza, chiaramente, da questo punto di vista, una resistenza a mettersi in discussione, e quindi credo che in qualche modo si colgano tutte le occasioni per poter rimarcare, diciamo, fare qualche sgambetto, insomma, a questo processo, che è un processo di incontro fra le lotte, d'auto-organizzazione, che è fuori da meccanismi di mediazione, anche legati, diciamo, a quello che rappresenta, diciamo, l'approccio sindacale, no? Perché si mette in discussione complessivamente lo stato di cose presenti, senza dividere la nostra vita a pezzi, quindi si chiama anche tutti ad un attivismo e a una sfida più complessiva e più generale. E, rispetto alla questione della casa, io credo che invece sia fatto lo sforzo contrario, cioè quello di generalizzare le lotte, di ragionare attorno al tema della precarietà, del Job Act, allargando il ragionamento fino alle lotte territoriali. È chiaro che, diciamo, la controparte o i media rappresentano questo conflitto molto dal punto di vista della lotta per la casa, e questo però è legato anche al fatto che la lotta per la casa spesso rappresenta il cuore di questa protesta, anche dal punto di vista numerico, ma non solo, dal punto di vista della vivacità, della determinazione, sta veramente tenendo in piedi un'impalcatura. Quindi credo che invece la lotta per la casa vada riconosciuto il protagonismo, vada riconosciuta coraggio e la determinazione che le persone mettono in ogni cosa che si costruisce, ecco. È un po' l'opposto il ragionamento che faccio, però è, appunto, è chiaro ed evidente a tutti, quando si interpreta e si legge anche la composizione materiale, umana, dei cortei e delle cose che si mettono in piedi, che c'è un protagonismo forte, anche una contraddizione forte che sta esplodendo attorno al tema della casa, insomma. Pronto? Pronto? Sì, mi senti? Mi senti? Sì, okay. Io ho perso un attimo. Sì, sì, sì. Noi ti abbiamo sentito bene. Abbiamo perso Irene, quindi stiamo provando a richiamarla. Infatti io credo che la casa spesso e volentieri è stata un veicolo non solo, appunto, del bisogno della casa, ma anche di altro, cioè ovviamente l'appagamento di un bisogno, ma va anche a incidere su quello che poi è la ricattabilità sul lavoro, quella che è poi, appunto, la precarietà che ognuno di noi si vive. È un modo anche per liberare spazi e tempi di quelle persone che sono ricattate e sfruttate quotidianamente, quindi non si può non vedere come siano legati queste due condizioni, e quindi quanto sia importante la lotta per la casa in un territorio metropolitano anche come quello di Roma. Inoltre penso anche che quando si è costruita la manifestazione del 18 e del 19 e poi quella del 12, il metodo che si era messo in campo era quello di mettere in connessione le diversità e anche le varie lotte che stanno sul territorio nazionale, è stato anche rispettato. Questo metodo è stato messo in campo anche rispetto al 12. Penso anche che se ci sono delle lotte vere insomma, portano anche dei numeri, che riescono a costruire, appunto, una conflittualità importante nel paese che riguardano il lavoro quanto la precarietà, è normale che ci sarebbe stata una rappresentazione in piazza più grossa, più che rappresentazione, dato che non ci piace pensare che durante i cortei si rappresentano le lotte, ma piuttosto portare le lotte nelle piazze. Credo che se mancano appunto dei pezzetti, perché mancano probabilmente delle grosse lotte che riguardano il lavoro e la precarietà, ed è una cosa su cui ci dovremmo interrogare tutti, come trovare la chiave, insomma, per se può essere anche che non sia, insomma, necessario, riprende appunto da le persone che si vivono in prima persona questa cosa, se riescono anche a essere a costruire un momento di rifiuto nei confronti di quello che succede, a ribellarsi contro il Jobs Act piuttosto che contro tutto quello che è un attacco diretto ai diritti e sui posti di lavoro, ma anche chi non c'ha il lavoro, perché bisogna dire questo. Quindi credo, insomma, che oltre a enunciare e a fare sintesi, probabilmente dovremmo sforzarci di riuscire a costruire delle robe nei territori, senza lamentarci, insomma, che ci sono delle lotte più forti. Irene, però volevo anche dire questo: io credo che il fatto che questo movimento, diciamo, questo ciclo di movimento, insomma, di lotte che si è messo in moto dal 19 ottobre in poi, venga reso credibile dalle lotte stesse. Noi veniamo da diversi anni di vuoto in cui non si riusciva a determinare una manifestazione nazionale, a mettere insieme, no, i tasselli di un'opposizione sociale e di un conflitto. E oggi, diciamo, c'è un protagonismo nuovo che è sostenuto dal fatto che ci sono delle pratiche, ci sono dei percorsi materiali che vengono messi in campo, e non il contrario. Cioè, la lotta per la casa dà credibilità come le lotte Notav, come le lotte che esistono, che sono vere, rappresentano uno spazio di possibilità che viene raccolto, non viceversa. Quindi penso che questa sia una riflessione importante, ma anche un dato di realtà che è difficile mettere in discussione.